C'è un dubbio che mi tormenta in questi giorni, e non è quello che serpeggia dall'altro ieri tra i commentatori e tra i cittadini pensosi del proprio futuro, di cosa ci si possa aspettare da un governo di tecnici. Da un governo di tecnici io, come suppongo tutti voi, non mi aspetto niente di buono, soprattutto se con questa espressione si designa, come quasi sempre si finisce per designare, un governo di politici che non si definiscono per tali. E anche se di autentici tecnici si trattasse, resterebbe sempre il problema di scoprire qual è la tecnica esattamente che padroneggiano o devono padroneggiare. D'altronde è un problema vecchissimo, risale come minimo a Platone, figuratevi, che dopo accurata disanima, forse lo ricorderete, finiva col negare utilità per il politico di specifiche competenze tecniche, e ai custodi, vi chiamava così, della sua città ideale, chiedeva di adoperare solo e soltanto la tecnica di governare. Lui naturalmente vi identificava con i filosofi, noi a quanto pare preferiamo identificarli con i banchieri, e che gli dèi ci proteggano tutti quanti. No, il dubbio che mi tormenta riguarda, diciamo così, la tecnica del referendum. È da martedì? Da martedì che mi chiedo in base a quale contorto ragionamento la legge preveda che la Corte Costituzionale esprima il suo richiesto, il giudizio di ammissibilità, no? Quello che gli viene richiesto, quando il quesito referendario è stato già proposto all'elettorato, su di esso sono state raccolte le firme, consolidate aspettative politiche e la consultazione praticamente è alle porte. Sarebbe molto più ragionevole che la Corte decidesse all'inizio, che direttamente ad essa fossero indirizzate le proposte di referendum. I cittadini presentano le proposte, la Corte giudica, dice questo sì, questo no, in caso di sì i promotori raccolgono le firme, se ci riescono si va direttamente a votare e non se ne parla più. C'è un rischio, il rischio di essere intasati da centinaia di quesiti presentati a mansalva, ma non dovrebbe essere difficilissimo superarlo con qualche scamotage tecnico. E comunque è un rischio infinitamente preferibile a quello in cui la Corte inciampa regolarmente tutte le volte di sembrare attenta più alle necessità politiche del momento che al rispetto dei principi della Costituzione. Perché io personalmente sono convinto che in questo caso abbiano fatto benissimo a cassare il referendum di Pannella e soci sul sistema elettorale. Ma nulla e nessuno mi convincerà che abbiano preso le sue decisioni in completa indipendenza e senza tener minimo conto della situazione politica, uno dei cui nodi era appunto quello se fare o non fare subito le elezioni. E le spiegazioni di perché questi referendum elettorali non siano stati ammessi, mentre quelli di segni 2 anni fa sì, spero ineccepibili che possano essere, sono veramente troppo sottili per far piazza pulita di questi consimili sospetti. Però nella legge del referendum in realtà c'è poco di ragionevole, che è perfettamente logico. È perfettamente logico se ricordate che è stata elaborata e approvata verso la fine degli anni 60 da un Parlamento assolutamente riluttante, costretto a fornire alla Chiesa e all'integralismo cattolico uno strumento legislativo che servisse da contrappeso alla legge sul divorzio, ma tutt'altro che entusiasta l'idea di introdurre nel sistema un istituto sia pur limitato di democrazia diretta. E per cui le norme allora elaborate rispondevano, dal punto di vista di chi le elaborò, soprattutto all'esigenza di rendere l'utilizzazione di questo strumento quanto più difficile possibile e comunque di contenerlo. Imponevano delle procedure di raccolta e autentica delle firme che allora sembravano impraticabili, si davano una gran pena per garantire il ruolo dei partiti nella campagna referendaria e infine, last but not least, prevedevano la possibilità di un intervento in extremis sui quesiti con il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Naturalmente una legge fatta male ha ottime possibilità di venire stravolta. Non soltanto perché i legislatori allora dimostravano di non essere assolutamente capaci di prevedere l'evoluzione che pure era imminente del sistema di cui facevano parte e non avevano capito che l'avvento di nuove forme di militanza politica e il nuovo assetto degli strumenti di comunicazione di massa avrebbero reso facilissimo proporre sempre nuovi referendum e difficilissimo ai partiti controllarli, ma perché proprio per garantirsi la possibilità di servirsi del nuovo istituto per i propri fini finivano per definire una normativa rigida sì, ma pochissimo rigorosa, sono due cose diverse, anche se non sembra, con i risultati che in questi 30 anni abbiamo visto tutti. Perché la Costituzione, con tutti i suoi difetti, la Costituzione in sé è chiarissima. Prevede all'articolo 75 che si indica un referendum popolare, correttamente tra virgolette, un referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale e parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Basta. Non prevede la possibilità di cancellare, come oggi si propone abitualmente di fare, commi, paragrafi, frasi, singole espressioni dal testo legislativo, in modo che la risultante, la legge in questione, non risulti affatto abrogata in tutto o in parte, ma risulti più o meno profondamente modificata, che è una cosa che anzi la Costituzione espressamente preclude. Non prevede la possibilità di trasformare una legge elettorale proporzionale in una legge elettorale maggioritaria, come è stato fatto con l'infausto referendum Segni per quella del Senato, o quella di trasformare due turni in un turno unico, come si propone oggi di fare con la benedizione della Suprema Corte per quella dei comuni. Non prevede che l'esito di un referendum sia utilizzato come elemento cogente per costringere il Parlamento a modificare in senso analogo delle altre leggi, come si è voluto fare sempre nell'occasione dei referendum Segni per la legge elettorale della Camera, che nessuno aveva abrogato, ma che si ritenne che il referendum avesse implicitamente delegittimato o qualcosa del genere. Non prevede la possibilità di comprimere, di tagliuzzare, di stiracchiare le leggi secondo le necessità politiche del momento, con una tecnica che aveva reso celebre a suo tempo il celebre brigante Procuste, ma non s'addice al corpo elettorale di un paese serio. D'altronde, e concludo, tutta una fase della nostra vita politica, la fase del craxismo e del precipitoso declino della cosiddetta Prima Repubblica, è stata caratterizzata da un'assoluta indifferenza per la Costituzione, per la legge scritta, no? Dall'allegra pratica di sostituire una Costituzione materiale modellata a propria immagine e somiglianza a quella che si definiva con una punta di disprezzo la Costituzione formale. E non a caso l'arma di questo referendum stravolto e incontrollabile è brandita oggi da coloro che di quella fase politica sono gli unici veri eredi, da chi in quel sistema politico e partitico è cresciuto e si è sviluppato mascherando con conclamate pretese di contrapposizione la propria sostanziale vocazione parassitaria. Mi riferisco naturalmente a Pannella e ai suoi seguaci, cui, pur grati del fatto che abbiano finalmente rinunciato a fregiarsi di una definizione storicamente rispettabile come quella di radicali, non dovremmo concedere di impiegare impunemente quella altrettanto degna di ingannevole stima di riformatori. Sono solo residui, relitti, residui del passato di cui desidereremmo soprattutto l'abrogazione. Che ti penso è un controsenso, perché sei sempre qui, sì, tra le mie dita, come la vita, e in un sorriso, vi, il treno va, scomparirà sulle sue ruote.